La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi, 12 secondi. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto, in diretta o in podcast. Devo dire, oggi ci sono 36 gradi là fuori, qui a Milano, c'è una cosa veramente da squagliare anche gli assali delle automobili, ma vi auguro di stare un po' più freschi invece da dove ci ascoltate. E ohimè, o per fortuna, non lo so, abbastanza ohimè, ma comunque ci occupiamo anche oggi, visto che c'è il voto in corso nel Regno Unito sul referendum restare nell'Unione Europea o meno, e lo saprete che al di là degli appuntamenti di europei di calcio fino a stanotte, anzi a domani mattina, quando si dovrebbero sapere i risultati finali, c'è una specie di maratona per tutti su questo tema, perché in realtà è appesa alla scelta che faranno gli elettori britannici tutta una serie di possibili conseguenze, in realtà larghissimamente imprevedibili, di cui tutti chi più che meno si sono sforzati a descriverne la portata o meno a seconda dei diversi punti di vista. Ma la domanda che vi faccio io per sollecitarvi a telefonare all'800240024 è un'altra. In realtà, sondaggio stamattina dato alla 7 a Omnibus da Alessandra Ghisleri su come la pensano gli italiani su questo argomento, che è al centro del referendum britannico, mi hanno colpito due percentuali, ed è su queste due percentuali che vi chiedo di dire la vostra. Le percentuali questa volta sull'opinione degli italiani, era un sondaggio in cui sono state poste molte domande innanzitutto su cosa pensano gli italiani dell'Unione Europea e poi su come pensano che sia stata affrontata da parte dell'Unione Europea e anche dal nostro paese, l'Italia, il referendum britannico. Quello che conta di più, secondo me, è il primo elemento, cioè alla domanda qual è il vostro giudizio sull'Unione Europea, solo il 10% del sondaggio illustrato stamattina da Alessandra Ghisleri, solo il 10% ha risposto tra gli italiani: credo che l'Unione Europea sia una valida difesa anche dei miei interessi. È vero, c'era poi un 45%, ma comunque al di sotto della maggioranza, un 45% che dà con diverse sfumature, due altre sfumature diverse, un giudizio comunque positivo dell'appartenenza italiana all'Unione Europea, ma la percentuale di coloro che dicono no, è proprio una cosa che ci serve, fa i nostri interessi, perché grazie a quella i nostri figli vanno in Gran Bretagna, hanno accesso al welfare, alla generazione Erasmus e la libertà dei beni e dei servizi, sono solo il 10% degli italiani. Io ve lo chiedo con la stessa modalità, ci dite secondo voi, doveste votare oggi, ma nella realtà che giudizio date di questa Unione Europea dopo il 2011? Non c'è una politica comune neanche sull'immigrazione, sulle frontiere esterne, come sappiamo non ce n'è una neanche sull'euro, ci ha salvato solo Mario Draghi, inventandosi dal 2011 a oggi politiche monetarie non ortodosse, e che comunque sono una droga anch'esse, perché come ovvio ne approfittano molto chi? Due categorie di persone, cioè ne approfittano i più indebitati, cioè i governi, perché loro sì che ci guadagnano molto, spendono molto meno sull'interesse sul debito pubblico, e ci guadagnano poi i titolari di quegli asset finanziari che la BCE compra, e non compra più, come sapete, solo i titoli del debito pubblico, compra anche le obbligazioni delle grandi imprese, quelle su cui si rischia meno, e sono quelli i tipi di asset finanziari che vengono drogati in realtà dall'intervento della BCE. L'intervento della BCE nasceva per comprare tempo alle riforme e a rimettere in sesto i bilanci pubblici. Sapete che i governi, a cominciare dal nostro, interpretano invece che bisogna andare avanti a oltranza perché c'è bisogno di fare più deficit e più debito. Io, come sapete, sono in minoranza su questo, ma nella realtà questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono regole funzionanti in questa Unione Europea. Ma vi ritrovate in quel 10% e comunque in una percentuale che oramai è minoritaria anche tra gli italiani nel giudicare sì, l'Unione Europea va difesa? Insomma, come votereste voi? Aggiungo anche, però non è il centro della domanda che vi faccio, un'altra percentuale che mi ha molto colpito stamattina, perché oltre il 40% degli italiani ha ritenuto comunque, da quello che ha capito, da quel po' che ha capito del referendum britannico, che comunque noi siamo stati troppo mosci con i britannici. L'Unione Europea, ma anche l'Italia, non si è battuta per tutelare i suoi interessi. Quindi i britannici fanno i loro interessi, decideranno loro, noi non possiamo decidere. E tutto sommato l'Unione Europea ha concesso ai britannici comunque nuove facoltà di deroga prima del referendum, che varranno se il referendum non passa, quindi gli abbiamo regalato altri spazi di libertà che noi non abbiamo rispetto alle regole europee. Lasciate che vi dica, ma questo ve lo dirò nel corso della puntata, cosa penso io di questo argomento, che è l'argomento, il cavallo di battaglia da noi degli europeisti federalisti, di quelli che vogliono l'Europa superstato. Io non mi ci ritrovo per niente in questa cosa, e loro in realtà sperano anche loro che il Regno Unito esca, decida oggi di uscire. Non lo pensano solo coloro che sono nazionalisti, anti-euro e per la ripresa delle sovranità nazionali. C'è un considerevole pacco di autorevolissime figure italiane, faccio due nomi a caso, Prodi, Monti, Sergio Romano e così via, che dicono: leviamoci questi britannici di torno, perché loro hanno sempre obiettato al superstato europeo omologato, dirigista dal centro, e il motivo per cui invece, ve l'ho già detto adesso, io preferirei che restassero dentro, proprio perché sono sempre stati contrari a questo tipo di impostazione. Per chi crede che l'Unione Europea debba essere una libera convergenza per il mercato, per la libera concorrenza e così via, e non una unione centralizzata da tecnocrati, è meglio avercela dentro che fuori. Ma è la stessa ragione per cui chi pensa al superstato, chi pensa che i tedeschi ci pagheranno i debiti delle banche e del debito pubblico, invece meglio non avere i britannici, perché così saremo più forti noi nel chiedere questo. Siccome io non credo che lo otterremo, la penso diversamente. Cioè, ai miei occhi, in parole povere, cari ascoltatori, tutti gli opting out, cioè le facoltà di deroga importanti, ce ne sono quattro importanti che il Regno Unito ha ottenuto negli anni 70-80, cioè la facoltà naturalmente di non appartenere all'euro quando poi l'euro è nato, ma i tre più importanti ancora erano quelli: la facoltà di far prevalere caso per caso il diritto domestico su quello comunitario, la facoltà di non essere trascinati di fronte alla Corte Europea di Giustizia di Strasburgo da altri stati comunitari, quindi la facoltà di non appartenere all'area di Schengen. A questo abbiamo aggiunto anche la trattativa che ha fatto Cameron prima del referendum, abbiamo aggiunto anche altre tre importanti facoltà: quella di potersi astenere su tutti gli sviluppi in corso o futuri sulla cosiddetta Ever Closer Union, su un'Europa più stretta, cioè più omologata, dopodiché gli abbiamo concesso una cosa che secondo me è giusta, perché non vale solo per loro, cioè la facoltà che i parlamenti nazionali, che rappresentano almeno il 55% dei voti del Consiglio europeo, possano chiedere obbligare la Commissione europea di fronte alle sue decisioni di doverle rivedere. Quindi i britannici hanno lottato anche per noi, per dare uno spazio di sovranità nazionale ai nostri parlamenti. E poi il Regno Unito ha ottenuto comunque la facoltà, e vale non solo per il Regno Unito ma per tutti gli stati membri, anche in questo caso, di non applicare automaticamente il proprio welfare anche agli altri cittadini europei immigrati. E qui finisce la mia troppo lunga introduzione, perché vorrei capire se avete capito che se escono, per molti giovani italiani, moltissimi dei vostri figli che vanno lì non solo per studiare ma anche per vedere un po' se con lavori a basso reddito si fa un po' di soldini e ci si prende una pausa negli studi in Italia e così via, se avete capito che se escono queste cose automaticamente non ci saranno più. E questa cosa, se pensate che ci sono 250.000 italiani solo a Londra, è una cosa i cui effetti sarebbero, credo, abbastanza dolorosi, ma questa è una delle possibili ricadute del referendum. Allora, per spiegarci meglio che cosa, come si vive lì questa giornata di voto, che è iniziata stamattina con pioveva tantissimo a Londra, nel collegamento con Attenti a Noi Due che avevamo Cristina Marconi, e per capire quali sono gli ultimi sondaggi, impressioni, come si vive questa giornata, e per noi a Londra Michele Pisano. Michele Pisano è un giovane stagista dell'Istituto Bruno Leoni, che quindi sta lì, e tra i comitati organizzatori contrapposti del referendum e i seggi è in grado di restituirci un'impressione diretta di che cosa sta avvenendo. Grazie di essere con noi, Michele. Buonasera a tutti. Allora, come ti sei organizzato la giornata in realtà? Dove passerai queste ultime ore per farti un'idea? Allora, stamattina mi trovavo a Londra centro, adesso invece sono in diretta da un pub di Islington, dove appunto posso fare il collegamento tramite wifi e ho appena concluso una tournée di un paio di seggi elettorali. Ma hai appena detto una cosa, chissà come anche gli italiani che vivono qui vivono il giorno del referendum. E io ti dico subito cosa è successo stamattina, perché sai, era passeggiando oggi, dirigendomi verso il centro, mi sono fermato a guardare un cartellone con una mappa e a fianco a me due coniugi italiani stavano cercando anche loro una parte, una zona, e quindi ho capito che appunto essendo italiani di Pavia abbiamo chiacchierato e ho notato che loro avevano la spillina, l'adesivo anzi, il remain sullo zaino. Uh-huh. E quindi anche lì abbiamo chiacchierato. E proprio tu che hai detto come la vivono gli italiani, questi due coniugi sono qui a vivere con apprensione la giornata del referendum perché la loro figlia, ha 28 anni se non ricordo male, è un insegnante qui. E gode di tutti i vantaggi che il fatto che il Regno Unito stia dentro l'Unione Europea possa appunto godere. Quindi questo è un esempio concreto di quello che è accaduto, che mi è accaduto personalmente stamattina. Poi facendo il giro dei seggi elettorali c'è stata la possibilità, insieme anche altre due amiche giornaliste, Marta Ottaviani e Elisa D'Ippolito, di chiacchierare, perché qua poi ci si è ritrovati anche con altri giornalisti italiani, certo, di chiacchierare con delle persone che uscivano dal seggio. Ci troviamo in una zona, quella di Islington, che dalle interviste che abbiamo fatto, quindi bisogna vedere se appunto diciamo, un piccolo exit poll ci dà un voto, una tendenza favorevole al remain, quindi al rimanere. Anche se da Londra più o meno ce lo si aspetta, il problema è poi la pancia profonda dell'Inghilterra, il nord, centro, esatto, il Galles. Bisogna capire poi cosa arriva dalle altre zone, perché se Londra... Ma c'era gente a votare? Allora, nella zona di Islington no, ma c'era poca gente, non c'erano le code che i giornali inglesi, di cui i giornali inglesi parlano, però ci può essere anche una motivazione che è quella dell'orario, ovvero ci hanno detto che dopo le 18 ci sarà un'affluenza notevole, alle 15 ora inglese l'affluenza era di circa il 20-25%, ok? Quindi non so, in questa zona a occhio potrebbe chiudere sul 50. Il fatto è che qui i referendum in Regno Unito sono tra virgolette rari, ecco, sono una cosa tutta italiana, per cui noi italiani possiamo fare le nostre proiezioni, ecco, capire quanti andranno a votare alla fine a seconda dei voti che abbiamo a mezzogiorno. Qui invece è diverso, vanno a votare soprattutto chi appunto ha un interesse diretto. Nel sondaggio che tu hai detto, che tu hai citato, quello di stamattina della Ghisleri, se non sbaglio, sì, che diceva che dava un 10% di persone che credono che l'Unione Europea difenda gli interessi propri, qui invece secondo me è il contrario. Chi va a votare Leave, chi va a votare soprattutto Remain, lo fa soprattutto per difendere i propri interessi, perché si rendono conto di quanto sia importante rimanere nell'Unione Europea oggi. Quindi la concezione è diversa. Infatti l'idea è che più alta è la partecipazione al voto, maggiore è la possibilità che i sondaggi, a dire la verità non tutti, perché ce ne sono molti che continuano a dare anche il Leave in vantaggio, però che più alta è la partecipazione al voto, più il segnale dovrebbe essere che vanno a votare quelli favorevoli al Remain In e non solo gli ipermotivati del Leave. Poi vedremo se è davvero così. Guarda, sul fatto che il Leave sia ipermotivato, se ne parlano anche i giornali che oggi stanno affrontando la questione del meteo, perché come ben sapete alcuni ci sono state lunghe code e poi alcuni seggi sono stati chiusi perché nel sud di Londra, nel sud dell'Inghilterra c'è stata una forte pioggia, ecco, e quindi si dice che questo potrebbe avvantaggiare in realtà il Leave perché è più ipermotivato. Ecco, qui siamo nelle solite chiacchiere da giornata del voto, che poi alla fine bisogna capire se siano veritiere o meno. Per quanto riguarda poi la questione politica, molto interessante l'analisi sul superstato dell'Unione Europea che viene tifato da alcuni italiani, sì, che attraverso il Brexit si tolgono dalle scatole il Regno Unito, perché quindi si può lavorare meglio, ecco. Ecco, il referendum qua ha una forte connotazione politica, anche se molti cittadini cercano di non farla trasparire. Ti spiego perché. Perché qua a Islington, dove mi trovo io, ho parlato quasi solo con persone, elettori del partito Labour, dei laburisti, che ovviamente sono piuttosto in imbarazzo a votare un fronte che ha visto in prima fila il primo ministro conservatore, perché sappiamo bene che invece il segretario laburista sì, si è schierato per il Remain, ma diciamo che cerca di stare dietro, anche perché forse no, non beh, ha poi neanche... si ha parlato a campagna inoltratissima, ha usato argomenti non molto decisi, anzi due giorni fa ha candidamente, cioè dico per finta candidamente, ha detto ma io in realtà poi l'Europa non l'amo, quindi è inutile che io menta ai laburisti e al mio partito e a tutti gli elettori britannici, non l'ho mai amata e credo che anzi combatteremo meglio, dice, per cambiare la politica economica del nostro paese se staremo fuori e non se staremo dentro, che è paradossalmente lo stesso argomento che usano quelli del Leave, applicato invece alla libertà per le piccole imprese e così via. Tanto è vero che per esempio la parlamentare che è stata assassinata purtroppo la settimana scorsa, cioè Jo Cox, era da questo punto di vista una critica rispetto a Jeremy Corbyn, critica perché proprio perché apparteneva lei alla frangia dei laburisti che sono più impegnati, ma la realtà è che anche l'elettorato laburista dai sondaggi si capisce che è spaccato in due, cioè non è così ferocemente e stramaggioritariamente pro-europeo come sembra, o meglio in alcune aree del paese di più, come per esempio in Scozia, dove pure hanno perso le elezioni clamorosamente, le ultime elezioni politiche a favore della Scottish National Party, ma in altre aree del paese, segnatamente in Galles, nel Midlands e così via, ma molto meno. Quindi da questo punto di vista Jeremy Corbyn non è neanche del tutto disallineato a quello che sembra il comportamento elettorale, le preferenze elettorali del suo partito. Tra le altre novità, questa mattina il Telegraph presentava una lunga testimonianza dell'ex sindaco di Londra, Boris Johnson, che è impegnato fin dal primo momento invece per l'uscita dall'Unione Europea, che interrogato sul fatto che se vince il Leave diventa premier al posto di Cameron, che potrebbe dimettersi a quel punto, oppure no, dice no, io considero questo referendum molto più importante del resto della mia carriera politica, naturalmente. Beato chi ci crede, però questo è il motivo, per così dire, usato da Boris Johnson, che pure è anche abbastanza, non è universalmente apprezzato e amato nella politica britannica, per così dire, per convincere a votare sia all'uscita anche coloro a cui sta un po' sulle scatole, per così dire, e magari è laburista, come è giusto, ogni politico utilizza al meglio la sua possibilità di comunicazione fino all'ultimo momento decisivo. Torniamo tra un minuto, adesso traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Nel frattempo c'è un sviluppo di cronaca. Vedremo se è solo cronaca, se è un matto o che cos'altro. Perché l'agenzia Arma, Alseansa, perdonatemi, informa che un uomo armato ha sparato all'interno di un cinema. Stiamo parlando di una vicenda che è avvenuta in Germania, a Birkenheim, nella parte occidentale della Germania, facendo almeno 20 feriti. Per il momento si parla di feriti. Non ci sono altre notizie, se dovessero uscire in questi minuti ve li daremo. Vediamo se si tratta di un matto, di una vicenda personale, di uno squilibrato o invece di altro tipo. Però speriamo che non ci siano marchi terroristici di qualche tipo, per quanto, come avete visto, nelle ultime vicende di attentati di terrorismo i matti che aderiscono a questo tipo di appello sono matti, ma poi si calano dietro uno sbergo che è quello del terrorismo islamista. Comunque per il momento non si sa nulla se non questo primo bilancio e la notizia del fatto, e vi terremo aggiornati naturalmente non solo nel corso della trasmissione ma nelle successive edizioni del nostro giornale radio. I mercati e le borse sono arrivati nella convinzione assoluta, devo dirvi la verità, che vinca il Remain nel referendum britannico. Il FTSE MIB guadagna 2.4 qualche minuto fa ed è anzi il maggior guadagno nelle borse europee, perché l'IBEX a Madrid è più 0, più 1, qualcosa, il DAX in Germania è più 0,89, il CAC 40 a Parigi più 1,02, quindi i mercati scommettono tantissimo, seguono gli alliberatori da questo punto di vista. Voi sapete la differenza tra gli alliberatori e i sondaggi: gli alliberatori incamerano una vittoria del Remain molto più forte rispetto a quella dei sondaggi, perché per così dire incamerano la prospettiva di chi si è convinto così. Non è un affidamento dal punto di vista statistico che davvero ci dia un peso rispetto a come davvero può finire questa cosa. Pensate che le norme per votare in Gran Bretagna sono così, tra virgolette, rigorose, che in alcuni seggi stamattina, dove un po' furbescamente erano esibite o la croce di San Giorgio, che nella parte, diciamo così, dell'Union Jack, quella che sta per rappresentare l'Inghilterra, le hanno rimosse dai seggi proprio perché, per evitare che fosse un implicito messaggio a favore dell'uscita. Invece la polizia circonda il cinema, continuo a leggervi dall'Ansa, dove un uomo è barricato e non si capisce però allo stato attuale se questa vicenda che avviene in un cinema a Wiertheim, vicino a Francoforte, veda l'uomo barricato all'interno del cinema da solo o con ostaggi. Il bilancio per il momento, primissimo bilancio dell'agenzia, è quello di 20 persone ferite. E l'uomo sarebbe naturalmente, indosserebbe una maschera, ecco, cioè ha la propria identità travisata da una maschera. Non è questa un particolare che ricorre in quelle di attentati avvenuti in Francia o in Belgio, e quindi di marca, per così dire, riconducibile ad adesioni singole o reti logistiche organizzate dall'ISIS, però vedremo naturalmente e vi terremo informati. Allora, vediamo un po' delle vostre telefonate in risposta all'interrogativo che abbiamo cominciato questa puntata, che nasce per darvi gli sviluppi in corso a Londra e in Gran Bretagna sul voto nel referendum per rimanere o meno nell'Unione Europea. Sentiamo Nicola, che ci chiama da Belluno. Nicola, prego. Sì, buonasera, io sono uno di quelli che tifa perché la Gran Bretagna esca fuori. Perché? Ma non mi va bene essere messo nel novero di coloro che vogliono uno Stato iperburocratico a guida tedesca, ma semplicemente perché secondo me la Gran Bretagna non ha mai creduto storicamente nel progetto di uno Stato unico, esatto, europeo. E lo ha sempre detto. Io devo dire, posso dire, Nicola, io apprezzo i politici britannici, invece di considerarli nemici dell'Europa, io apprezzo il fatto che si siano battuti per ottenere quelle deroghe, le hanno ottenute. Loro hanno sempre spiegato, la Thatcher, ci sono due grandi interventi storici, quello nel settembre 88 al Collegio di Bruges, in cui disse esplicitamente di fronte a tutti i leader europei: per me è no al superstato, per me è una libera convergenza di stati per quello che ci conviene più per tutti, cioè l'unificazione dei mercati e la libera concorrenza, ma con riserve nazionali di dire sì o no. Quindi lo disse e lo fece, come disse esplicitamente no all'euro, perché dal mio punto di vista una moneta unica che non deve avere una banca centrale che prende ordini dalla politica, disse testualmente, ma deve essere responsabile anche verso la politica, come avviene con Bank of England di fronte al Parlamento britannico. Fare una moneta unica così per me è una cosa inaccettabile. La mia opinione è che i dati di fatto hanno poi dato ragione alla Thatcher, quindi io non riesco a considerare una nemica. L'ho interrotta solo per ricordare ai nostri ascoltatori che quello che dice lei è stato il nocciolo della politica britannica, ma non per dire no all'Europa, era un'altra idea, ed è un'altra idea che secondo me funziona di più. Lei come la pensa? Beh, no, non funziona di più. Io voglio un'Europa che sia federale, federata sul modello degli Stati Uniti, sul modello, perché no, tedesco, come tutti i diversi. Quindi lei è per una federazione vera, sì. Io sono per una federazione europea che però a livello centrale funzioni come uno Stato centrale. Non mi spaventa questo. Mi spaventa di più il fatto che rimangano tutta una serie di legislazioni diverse da Stato a Stato, per cui io ho un titolo che vale in Italia e non vale all'estero, oppure faccio delle cose all'estero che in Italia non sono riconosciute. Lei è un federalista, cioè, vero, però posso notare, non è che io veda in Prodi, Monti, in tutti coloro che vogliono l'Europa unificata dei tecnocrati, quello che dice lei, perché sono i primi che poi non le hanno abbattute le normative nazionali sul lavoro, sulle professioni, sulle concessioni pubbliche e così via. Io trovo una contraddizione. quello che dice lei, certo che ha un senso, perché allora si fa una federazione, ma la federazione significa che le legislazioni nazionali differiscono, ma non nei punti di fondo, perché significa che bisogna unificare i veri mercati, i mercati dei beni, dei servizi, del lavoro, delle professioni, e tutto quello che la politica, anche chi si dice europeista, in Italia non fa mai, e finché teniamo i mercati separati, sa, a quel punto le politiche restano separate, la federazione non c'è. Alessandro da Cesena, come la pensa Alessandro? Salve, allora Giannino, buonasera a tutti, io sono autotrasportatore, io sono dell'idea di Winston Churchill, poco prima della conferenza di Yalta, lui era per gli Stati Uniti d'Europa, non per l'Unione Europea. Esatto. Lui era britannico, un britannico in inglese puro, quindi sapeva quello che voleva per l'Europa, perché diceva altrimenti succede il casino che è successo poco fa, quindi gli Stati Uniti d'Europa è secondo me la soluzione. L'Unione Europea è un gigante economico, un nano politico, beh, soprattutto con la politica estera della Mogherini. Ma quindi lei fosse britannico voterebbe per l'uscita, quindi? Ma certamente, anche perché darebbe uno scossone a tutti i governi interni, a tutte benissimo, queste politiche. Benissimo, grazie Alessandro. Io intanto do notizie che sono rincuoranti da Vietnam, dalla Germania, perché l'ANSA informa che le unità speciali della polizia hanno fermato l'uomo armato e mascherato che, dopo aver sparato nel cinema, si era barricato all'interno di questa multisala cinematografica a Wiernheim, a sud di Francoforte. Questo lo scrive Die Bild, e sul suo sito diverse persone sarebbero state ferite anche per l'utilizzo di gas urticanti nell'operazione della polizia, mentre non è ancora chiaro il bilancio di chi è stato ferito dall'arma da fuoco usata chi è responsabile di questo gesto, se ne ignora la matrice, la ragione, eccetera eccetera, però mi sembra che per fortuna è rientrato, speriamo che non ci siano poi vittime ma solo feriti leggeri. Allora, intanto continuate con Radio 24, grazie a Michele Piccampisano collegato da noi con Londra, e noi continueremo naturalmente a informarvi su quello che avviene, e ci saranno speciali anche domani mattina molto presto su Radio 24, e comunque con Attenti a noi due, io Alessandro Milan, domani ci siamo.